giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo le dichiarazioni di Donzelli di Fratelli d'Italia, si riapre la partita del terzo mandato per i governatori. Nessuna preclusione ideologica ad affrontare il tema. Ancora in corso in Consiglio Comunale a Trieste la discussione sulla variante che dovrebbe prevedere la cabinovia. Difficile che si voti oggi. Oggi invece è l'ultimo giorno di scuola per buona parte dei 135.000 studenti della regione. L'anno scolastico finisce ufficialmente domani, ma in tanti istituti il sabato non si fa più lezione. Oggi per i musulmani è la festa del sacrificio, la più importante dell'anno dopo quella di fine Ramadan. Questa mattina le preghiere in diversi luoghi della regione. A Trieste la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1.100 confezioni di patatine e oltre 200.000 dadi contraffatti e diretti in Germania e Inghilterra. Confindustria Udine festeggia gli 80 anni dalla rinascita dell'Associazione degli Industriali della provincia di Udine, avvenuta il 7 giugno del 1945. A Trieste è in corso il convegno annuale della Società Italiana di Andrologia, occasione per celebrare la scuola triestina che ha segnato lo sviluppo di questa specialità in Italia. Nel fine settimana ancora tempo instabile, domenica si prevedono temporali sparsi, miglioramento da lunedì, poi la prima vera ondata di caldo con temperature sopra i 30 gradi. A mezzanotte scade il termine ultimo per l'iscrizione della Triestina al campionato di Serie C. Sono ore di concitazione negli uffici della società e di apprensione tra i tifosi. Ci sarebbero i 3 milioni di euro dagli Stati Uniti, ma potrebbero non bastare. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Andrei Marusic. Fratelli d'Italia dunque apre al terzo mandato, almeno così hanno scelto oggi di titolare molti giornali dopo il vertice di ieri a Roma del partito di Meloni, al quale tuttavia la Premier non ha preso parte. Al termine della riunione Giovanni Donzelli ha dichiarato: non c'è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle regioni. Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna regione scelga il numero dei mandati, deve esserci una riflessione nazionale. Dichiarazioni che potrebbero aprire la strada anche qui ad una possibile rielezione di Massimiliano Fedriga ai vertici della regione per la terza volta, ma sentiamo le reazioni in Friuli Venezia Giulia. Si riapre la partita del terzo mandato per i governatori. Nessuna preclusione ideologica ad affrontare il tema se posto dalle regioni, ha dichiarato ieri il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Donzelli al termine dell'esecutivo del partito. Soddisfatta la Lega con il senatore Dreosto, che la definisce una questione di democrazia e auspica che si possa lavorare a una norma in tempi brevi. Non va interpretato come un passo indietro né come un passo avanti, secondo il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Rizzetto, che dice: bisognerà comunque attendere la consulta sull'impugnazione della legge trentina e se ne parlerà eventualmente e solo in un tavolo nazionale. Il presidente Fedriga ricorda che la conferenza delle regioni all'unanimità ha chiesto un approfondimento sul limite dei mandati e dice: siamo a disposizione del governo per affrontare la questione. Da Forza Italia Savino dichiara: prendiamo atto di questa apertura, sarà un tema da approfondire con gli alleati prima di prendere ogni decisione. È solo uno specchietto per le allodole che riguarda problemi interni al centrodestra per la segretaria regionale del Partito Democratico Conti. Un balletto indegno per Serracchiani PD, che aggiunge: anche l'ultimo dietro front di Fratelli d'Italia è solo tattica. In 2 settimane passano come niente dall'alto là del capogruppo alla Camera al confrontiamoci di Donzelli, una presa in giro per gli elettori. Morettuzzo, del Patto per l'Autonomia, ribadisce la contrarietà al terzo mandato e ritiene improbabile che poi di fatto la partita si riuscirà concretamente a riaprire. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Era previsto per oggi in Consiglio Comunale a Trieste il voto alla variante urbanistica per la cabinovia, un progetto che ha suscitato forti proteste in città, con un dibattito caratterizzato anche in aula da forti tensioni. La discussione si sta allungando ed è possibile che il voto slitti ulteriormente. Il terzo giorno della seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Trieste, dedicato alla variante urbanistica al piano regolatore che riguarda il progetto della cabinovia fra la città e il Carso, è quello degli emendamenti superstiti. Meno del 10% di tutti quelli presentati, 34 su 385, di cui solo 12 dell'opposizione, sono infatti quelli ritenuti ammissibili dall'Aula al termine della giornata di ieri, con un voto fortemente criticato dalle minoranze, con il centro-sinistra che ha parlato di forzatura inaccettabile del regolamento. Dopo un inizio ritardato di un'ora per le numerose assenze tra le file della maggioranza, questa mattina la discussione è partita proprio dagli emendamenti dell'opposizione, quattro dei quali sono stati accolti dall'assessore alle politiche del territorio Babuder. Riguardano questioni tecniche come ad esempio l'esplicitazione nel testo della delibera dell'esito negativo della valutazione di impatto ambientale sulla cabinovia. Gli altri, su cui la discussione è ancora in corso, riguardano i riferimenti della delibera al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che le minoranze chiedono di eliminare. E nel corso degli interventi degli esponenti dell'opposizione, con la maggioranza che invece ha deciso di non intervenire per accorciare i tempi della discussione, si è svolto un breve battibecco tra il consigliere Francesco Russo e il sindaco di Piazza, con il primo che ha rimarcato che sono molti i cittadini, anche di centrodestra, contrari alla cabinovia, e il secondo che lo ha invitato a una camminata pubblica congiunta per le strade della città per tastare davvero il polso dei triestini. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. 135.000 studentesse e studenti della nostra regione festeggiano oggi l'ultimo giorno di scuola. La conclusione ufficiale dell'anno scolastico è prevista domani, sabato, ma in tantissimi istituti ormai non si svolgono più le lezioni in questo giorno della settimana. Dalla prossima settimana scattano gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione, le scuole medie. Ogni istituto può calendarizzarli autonomamente, ma il 18 giugno sarà il primo giorno per l'esame di Stato di istruzione secondaria superiore, ovvero la maturità con la prova scritta di italiano. La ripresa delle lezioni è prevista l'11 settembre. Musulmani in preghiera nei campi sportivi delle parrocchie di Staranzano e Monfalcone per la festa del sacrificio. Dopo lo stop del Consiglio di Stato alle loro sedi di culto, le comunità cattoliche hanno aperto gli spazi in segno di dialogo e accoglienza, ma non mancano le polemiche anche per una foto controversa. Rivolti verso la Mecca, hanno pregato nei campi sportivi delle parrocchie di Staranzano e Monfalcone, i musulmani rimasti senza luogo di preghiera collettiva dopo la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che vieta assembramenti nelle loro sedi. Per la festa del sacrificio, una delle festività più importanti dell'Islam, le due unità pastorali hanno scelto di concedere i propri spazi, come già accaduto per la festa di fine Ramadan. Don Paolo Zution. Il Papa, tutti ci invitano a pregare per la pace. La pace deve nascere innanzitutto da piccoli gesti che compiamo insieme. Questo penso sia un gesto di pace tra la comunità cristiana e la comunità musulmana che sono chiamate a convivere assieme. A Staranzano la preghiera è stata preceduta da un saluto anche del sindaco Marco Fragiacomo. La Costituzione nostra prevede che i cittadini possano professare le loro fedi religiose in maniera opportuna. Nel contempo anche abbiamo avvisato la popolazione di questo evento. 4.000 fedeli complessivi che hanno partecipato alle preghiere del mattino. Siamo grati per l'accoglienza ricevuta, hanno detto gli organizzatori. Mancava il posto a Monfalcone. Alla fine parrocchia hanno dato a disposizione questo posto. Grazie di cuore. Davanti alla chiesa della Beata Vergine Marcelliana di Panzano, che poche ore prima aveva ospitato la preghiera, incontriamo Anna Cisinta, europarlamentare. In questa chiesa da bambina ha ricevuto i sacramenti, si è sposata e di recente ha visto sposarsi il figlio. È inaccettabile, dice. L'Italia sta arretrando continuamente ed è un grave errore. Bisognerebbe lavorare per riportare le persone nelle chiese, anziché cedere all'Islam pezzi così importanti. Tra l'altro erano presenti qui 1.000 soltanto uomini. E poi ci inoltra una foto scattata la mattina in cui si vede la statua del Cristo coperta con un asciugamano. Grave, inaccettabile, ha detto Cisinta. In questo caso condivide le parole della Cisinta anche il consigliere d'opposizione Sani Boyan, che si dissocia da questa immagine. Verificherò, ha dichiarato il parroco Don Flavio, nessuno si sarebbe dovuto permettere di fare una cosa simile. Monfalcone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. I finanzieri e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Trieste hanno sequestrato oltre 1.100 confezioni di patatine e 216.000 dadi da cucina, risultati contraffatti e riconducibili a marchi ampiamente noti. Entrambe le tipologie di prodotto erano state scaricate a bordo di due trailer, l'uno diretto in Germania, l'altro nel Regno Unito, sbarcati nel porto di Trieste da altrettante motonavi provenienti dal porto turco di Mersin. Per il sequestro di patatine rappresenta una novità, quello dei dadi invece richiama alla memoria due distinti interventi operati nel corso del 2023 dallo stesso reparto, quando ne furono sequestrati quasi 500.000 destinati, almeno documentalmente, al mercato tedesco. E la Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto un'impresa del trevigiano che ha illecitamente ottenuto crediti d'imposta per 2,2 milioni di euro derivanti dal cosiddetto bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020 che permetteva di accedere a una detrazione fiscale del 50% per lavori di ristrutturazione sulle facciate esterne degli edifici. I quattro soggetti ritenuti responsabili della frode, un italiano e tre stranieri, tutti titolari di imprese edili, sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica in concorso per reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Gli indagati hanno simulato lavori di ristrutturazione delle facciate delle abitazioni di 24 persone residenti anche in provincia di Gorizia e Udine, ignare di essere state utilizzate per le illecite finalità dell'azienda trevigiana. Gli ignari clienti, sentiti come testimoni, hanno invece negato di aver mai conosciuto o concluso accordi con gli indagati, disconoscendo totalmente anche le informazioni riguardanti i presunti lavori edili su cui era stata richiesta l'agevolazione bonus facciate. Nell'arco di pochi secondi, una mezza dozzina di persone, servendosi di due furgoni, ha rubato biciclette di alta gamma da un negozio specializzato per un valore di circa 100.000 euro. È avvenuto nella notte scorsa in Viale Palmanova a Udine. In totale sono state asportate una quindicina di biciclette professionali. I modelli sono stati scelti accuratamente tra i più costosi, realizzati in carbonio. Il negozio specializzato era stato vittima di un primo raid notturno nel novembre scorso con modalità simili. In quel caso il bottino si aggirava sui 70.000 euro. Le indagini si concentrano sulla visione delle telecamere della zona per scoprire particolari dei ladri e dei veicoli usati. Le 12.41, uno sguardo al meteo, nuvolosità variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste e Pordenone 24 gradi, Udine 24,5, Gorizia 26,5, Piancavallo 15, Sappada 17, Forni di Sopra 20, Tarvisio 20,5, Tolmezzo 22 gradi, sullo Zoncolan 11,5, invece su Lussari 13,5. A Grado 24, a Lignano invece 25 gradi. Ma sentiamo da Marcellino Salvador dell'ARPA quale sarà il meteo nel fine settimana. Per quanto riguarda il fine settimana, giornata di sabato con cielo in genere poco nuvoloso, forse anche sereno lungo la costa dove soffieranno venti di brezza. In montagna variabilità con la possibilità di qualche rovescio sparso nel pomeriggio. Temperature massime intorno ai 28 gradi in pianura, 24-25 lungo la costa. Per domenica situazione simile per quanto riguarda pianura e costa, con un vento che però dal mare tende a rinforzare nel pomeriggio. Pomeriggio che vedrà dei temporali in montagna che potranno poi nel tardo pomeriggio in serata interessare anche la pianura e forse anche la costa. Giornata poi di lunedì con aria più fresca di bora e variabilità, e poi si apre da lunedì pomeriggio, ma probabilmente da martedì in maniera più sicura, un lungo periodo di bel tempo che caratterizzerà tutta la prossima settimana e che vedrà per la prima volta nell'anno raggiungere temperature probabilmente da metà settimana in poi che supereranno i 30 gradi in pianura per la prima ondata di caldo della stagione e anche appunto con la prima settimana di stabilità completa di questa fase di inizio estate. Confindustria Udine festeggia gli 80 anni dalla rinascita dell'Associazione degli Industriali della provincia di Udine avvenuta il 7 giugno 1945 con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, segno concreto della volontà degli imprenditori friulani di ricominciare a costruire un nuovo percorso di sviluppo dopo le ferite della guerra. È un anniversario, sottolinea Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, denso di significato storico e simbolico che viene celebrato da Confindustria come tappa fondamentale del proprio cammino identitario. Non si tratta soltanto di una ricorrenza formale, questa data segna la rifondazione morale e organizzativa di una comunità imprenditoriale che già nel 1922, con la nascita dell'Associazione Industriali Friulani, aveva posto le basi di una rappresentanza forte e autonoma. Dopo il commissariamento dell'Unione Industriale Fascista nel giugno del 1945, 81 imprenditori friulani posero la firma per far risorgere la vecchia e mai dimenticata associazione, ridandole vita e finalità in linea con un contesto democratico e repubblicano. Confindustria Udine festeggerà la ricorrenza organizzando un evento il 4 luglio a Palazzo Toriani. Sarà la prima edizione della giornata dell'associato, che diventerà un appuntamento annuale, un momento di incontro, condivisione e riconoscimento dedicato agli imprenditori e alle imprese. Il gruppo Servizi Associati, GSA di Udine, chiude il 2024 con un fatturato in forte crescita, superando i 236 milioni di euro, pari a un più 16% rispetto ai 203 milioni del 2023. Si tratta del quarto esercizio consecutivo di crescita, partendo dai 168 milioni del 2021, a conferma di un solido trend di sviluppo. GSA ha inoltre rinnovato il proprio consiglio di amministrazione, confermando il presidente, l'avvocato Giuseppe Bonomi, l'amministratore delegato, l'ingegnere Antonio Musacchio, e il vicepresidente esecutivo, il dottor Alessandro Pedone. Sopralluogo questa mattina nel porticciolo di Barcola, Trieste, dell'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Scocimarro. Il porticciolo è al centro di un progetto di riqualificazione con un investimento da parte della regione di circa 600.000 euro che prevede il dragaggio del fondale fino a 3,5 metri di profondità. In questi mesi partiranno le fasi di progettazione e le verifiche necessarie per l'avvio dei lavori che si svolgeranno durante l'inverno con l'obiettivo di concluderli entro primavera 2026. Scocimarro ha annunciato l'ipotesi di coinvolgere le associazioni subacquee del territorio per una prima fase di pulizia del fondale antecedente alle operazioni di dragaggio e inoltre allo studio la possibilità di inserire nell'ambito del programma di ripascimento degli scogli nel lungomare di Barcola un intervento di livellamento delle scogliere del porticciolo danneggiate dall'ondata di maltempo del novembre 2023. A Trieste, al Convention Center in Portovecchio, è iniziata ieri la 3 giorni annuale della Società Italiana di Andrologia, occasione per celebrare la Scuola Andrologica Triestina che ha segnato profondamente lo sviluppo di questa specialità in Italia. È ovviamente un momento di confronto tra gli esperti sulle principali problematiche e le nuove sfide di questa branca della medicina. Lorenzo Gallinzoni ne ha parlato col direttore della Clinica Urologica di Asugi, il professor Giovanni Liguori. Sentiamo quali sono le problematiche andrologiche più diffuse nella popolazione maschile. Le cause più frequenti per cui noi veniamo consultati sono innanzitutto l'infertilità. L'infertilità, sappiamo che il calo demografico è la vera emergenza della nostra società e la parte maschile è quota parte per un 40-45% delle cause di infertilità e quindi questa è senz'altro una delle maggiori cause per cui un andrologo viene consultato. A 18 anni sappiamo che un tempo c'era la visita di leva, nel 2005 è stata abolita, quindi da allora i maschi giovani non vengono più visitati perché dal momento che diventano grandi il pediatra non li vede più e prima che li veda il medico dell'adulto passa molto. Parlo del tumore del testicolo. Questo è una cosa molto importante perché tutte le donne fanno la autopalpazione del seno, sanno di doverla fare, da quando sono piccole gli viene insegnato, purtroppo ai maschi non viene insegnato di fare l'autopalpazione del testicolo che se vogliamo forse è ancora più facile. Si può dire che ci sia stato un incremento dell'infertilità nel tempo della componente maschile? Sì, questo è indubbio. Il numero degli spermatozoi nel liquido seminale dei maschi negli ultimi anni sta progressivamente diminuendo. Questo probabilmente dipende dallo stile di vita, la dieta, ma l'attività fisica. È dimostrato che un bicchiere di vino al giorno possa anche far bene, perché è ricco di antiossidanti, però un bicchiere. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato allievo della Scuola Superiore di Toppo Wasserman dell'Università di Udine Antonio Galetta, recente vincitore del premio Campiello, opera prima. Galetta si è aggiudicato il premio col romanzo Pietà, pubblicato da Einaudi. Il giovane romanziere ha studiato per 5 anni nella Scuola Superiore nel Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo Friulano. A Udine ha conseguito la laurea triennale in lettere e poi quella magistrale in italianistica. Parlando della sua esperienza a Udine ha detto: non è vero che la provincia sia sempre per forza marginale, in alcune province c'è un entusiasmo, una resistenza al disincanto che spesso manca nelle città più grandi e che auguro a Udine e a me stesso di non perdere mai. Un museo che lancia un messaggio contro tutte le guerre è il Diego de Enriquez di Trieste, una realtà un po' decentrata rispetto al centro della città, ma che registra 8.000 visitatori all'anno e che ha progetti di ampliamento. Lo abbiamo visitato per Buongiorno Regione con Livia Liberatore. Non è un classico museo di guerra, il Museo della Guerra per la Pace di Enriquez di Trieste, ma il museo della società del Novecento in guerra, con i suoi orrori e le sue paure, nel lungo cammino verso la pace. Nasce dalla volontà di Diego de Enriquez, studioso, collezionista di cimeli bellici, uomo dalle molte passioni. Nato a Trieste nel 1909, attraversò in prima persona i conflitti del secolo breve. Cristiano Rossetti, funzionario del comune di Trieste. Il Diego de Enriquez stesso denominò in una certa fase del museo, lo denominò proprio come centro internazionale per l'abolizione delle guerre e per la fratellanza universale. Il museo raccoglie 15.000 oggetti, mezzi militari, armi, fotografie, diari che de Enriquez raccolse durante la Seconda Guerra Mondiale. All'entrata un carro funebre molto simile a quello che trasportò il feretro della moglie dell'arciduca Francesco Ferdinando dopo l'attentato di Sarajevo. Antonella Cosenzi, responsabile del museo. L'attentato di Sarajevo pone fine a un periodo di relativa pace, quindi questa sezione si chiama proprio il funerale della pace, perché da qui ha inizio la Grande Guerra e poi anche, diciamo, di seguito altri conflitti che caratterizzarono il Novecento. Tra i progetti del museo, l'apertura degli hangar dedicati alla Seconda Guerra Mondiale, obiettivo potenziare l'attrattività della collezione. Abbiamo una media di 8.000 visitatori all'anno, con qualche punta un po' più alta negli anni precedenti. Questo museo poteva essere ospitato soltanto in una ex caserma e per questo è un po' decentrato, certo non favorisce tanto l'afflusso dei visitatori. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Andrei Mareussici in regia, per la parte tecnica Samuel Montalto e Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.